Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La corona di fiori lasciata dalla Lazio alla sinagoga finisce nel Tevere e Lotito avrebbe detto: famo sta sceneggiata. All'Italia arriva l'offerta per tutta la compagnia dal fondo americano Cerberus, Lufthansa, fuori questione l'acquisto così com'è. Monte dei Paschi torna in borsa con un crollo come previsto e si attesta intorno ai 5 euro sopra il prezzo teorico. Legge elettorale alle battute finali, dalle 14 le chiamate per il voto di fiducia, protesta dei 5 Stelle e della sinistra. Terremoto, il vento scoperchia i tetti delle casette provvisorie di accumuli, la protesta degli abitanti. Calcio Inter momentaneamente in testa alla classifica, stasera tutte le altre partite, il Napoli contro il Genoa. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, e come sempre siamo anche in diretta video sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Effetto Giorno. Dall'altra parte del vetro ci sono Laura Faggini in assistenza in redazione, Roberta Frisani in regia, e ricominciamo da dove abbiamo lasciato ieri, ossia dalla vicenda della Lazio, delle figurine con la foto di Anna Franca sovrapposta alle magliette della Roma e dagli aggiornamenti che arrivano proprio dalla stessa società calcistica. Finisce nelle acque del Tevere la corona di fiori bianchi e celesti portata ieri in sinagoga dal presidente della Lazio Lotito in segno di scusa. A gettarla pare siano stati alcuni ragazzi della comunità ebraica che all'inizio avrebbero pensato di lasciarla sotto casa sua, ma lungo il tragitto avrebbero deciso di disfarsene. Un gesto, quello di Lotito, che era stato comunque accolto con gelo dalla comunità. Non siamo una lavatrice né un luogo dove si presenta un omaggio floreale e si risolve tutto, aveva detto ieri il rabbino capo di segni. Ma come se non bastasse, si aggiunge ora la polemica per le frasi pubblicate dal Messaggero che Lotito avrebbe pronunciato ieri a bordo dell'aereo che lo portava a Roma. Famo sta sceneggiata, probabilmente riferendosi alla visita alla sinagoga. Lui però ribadisce, anche ai microfoni di Radio 24, noi in prima linea contro l'antisemitismo. E intanto gli ultra della Lazio non ci saranno stasera nella trasferta a Bologna per non essere complici, scrivono in una nota di un teatrino mediatico. Tutto questo mentre sale a 16, ma è destinato a crescere il numero degli ultra finiti nel mirino degli inquirenti per gli adesivi razzisti raffiguranti Anna Frank. 3 sono minorenni, 1 addirittura solo 13 anni e per legge non è imputabile. Rischiano il DASPO fino a 8 anni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Siamo ad Alitalia, oggi è arrivata un'offerta per l'intera compagnia. Spunta una via americana per Alitalia. A farsi vivo il Cerberus Capital, uno dei principali fondi di private equity statunitensi. Stando alle indiscrezioni del Financial Times, avrebbe contattato la compagnia con un'offerta che potrebbe cambiare lo scenario. Altre 6, ricordiamo, le proposte sul tavolo, ma tutte destinate ad un asse dell'azienda. Le più importanti, quelle di Lufthansa e EasyJet, dirette ad una parte della flotta, dei piloti e della manutenzione. Cerberus invece prenderebbe tutto. Il fondo, secondo le regole europee, non potrebbe però avere più del 49% della nuova azienda, dovendo quindi allearsi con uno o più partner. Tanto che, per evitare matrimoni ingombranti, avrebbe chiesto il mantenimento di capitale pubblico in Alitalia. L'investimento andrebbe invece tra i 100 e i 400 milioni di euro, con la disponibilità di intervenire già prima dell'acquisto nelle prime fasi di ristrutturazione. Ai sindacati l'offerta è quella di una forma di condivisione dei profitti. La proposta, però, per ora non confermata da nessuna delle parti, arriva ben al di là dei termini della gara pubblica. Quindi la via per il passaggio di mano dovrebbe quantomeno lasciar cadere i termini di quest'ultima. Un'ipotesi non semplice. Per ora, con i soldi del prestito ponte, 900 milioni, Alitalia ha assicurato i voli fino a settembre 2018. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi torna ad essere negoziato in borsa il titolo Monte dei Paschi, in questo momento a 4,97 euro sopra il prezzo che era stato teorizzato dalla stessa banca, in calo comunque del 67% come ampiamente previsto rispetto all'ultima quotazione di borsa prima che appunto dai mercati fosse esclusa. Siamo in diretta con Marco Ferrando del Sole 24 Ore per un commento, un'analisi su questo primo giorno di questa quotazione. In realtà la prima metà di giornata di quotazione, Marco, no? Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. E così, come si era previsto, è giornata di montagne russe, quindi il titolo è stato sospeso più volte, è nato formalmente in assa di volatilità, quindi è stato appunto sospeso per qualche minuto dalle contrattazioni. A dire il vero, le cose stanno andando un pochino meglio del previsto, nel senso che si pensava dovessero prevalere gli ordini di vendita, non dimentichiamo che il titolo è fuori dalle contrattazioni da 10 mesi, quindi si pensava che alcuni degli azionisti, che di fatto sono buona parte dei nuovi azionisti, si è trovato non per scelta ma per forza nel capitale, volesse vendere non appena se ne materializzasse la possibilità. In realtà c'è anche chi compra, stando ai rumori sarebbero essenzialmente due. Uno, i motivi. Il primo sono le ricoperture, quindi chi era corto sul titolo MPS già a dicembre dell'anno scorso si sta ridotando dei titoli di cui ha bisogno, e il secondo motivo sarebbero i grandi fondi istituzionali. Il monte è tornato sul mercato, quindi per motivi essenzialmente diciamo statistici deve rientrare in una serie di panieri, in una serie di fondi, e quindi questo farebbe scattare gli acquisti. Vedremo come finirà la giornata, comunque insomma meno peggio del previsto per ora. Grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore per questo aggiornamento. Ed è questa la settimana nella quale, dopo la mozione del Partito Democratico, si dovrebbe decidere sul vertice della Banca d'Italia. Sentiamo. La notizia della conferma o meno di Ignazio Visco alla guida di Banca d'Italia potrebbe arrivare già oggi o domani, proprio mentre il governatore è a Francoforte al board della BCE. In queste ore è infatti attesa la lettera del Premier Gentiloni al Consiglio Superiore di Banca Italia con il nome del nuovo inquilino di Palazzo Koch. Difficile quindi che Visco, in scadenza fino a ottobre, non venga confermato, dicono in molti. Ne va della nostra credibilità in Europa nel momento in cui la BCE decide se allentare il piano di stimoli all'economia e le banche soffrono. Palazzo Chigi è al lavoro. Da una parte c'è la mozione del PD contro Visco, dall'altra il Colle che vuole dare un segno di continuità. La decisione ufficiale arriverà venerdì nel Consiglio dei Ministri, CDM a cui, nonostante le polemiche, parteciperà anche Maria Elena Boschi. Basta con le bugie, non avevo e non ho nessuna banca. Sono pronta a un dibattito televisivo con l'onorevole Di Maio, rilancio all'ex ministro delle riforme. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prosegue l'andamento positivo dell'industria italiana. Stando ai dati dell'Istat, ad agosto l'incremento degli ordinativi è stato dell'8,7% rispetto al mese precedente. Il fatturato dell'industria cresce del 2%. Vanno bene sia il mercato interno che quello estero. La legge elettorale alla prova finale questo pomeriggio tra le proteste dell'opposizione. Andiamo prima a sentire che cosa succede al lato della maggioranza e che cosa ci attende per oggi dal punto di vista dei voti, e poi andremo appunto a sentire come si stanno organizzando 5 Stelle, MDP e via dicendo. Iniziamo dall'Aula, l'Aula del Senato. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, partirà tra un'ora la maratona delle fiducie qui a Palazzo Madama. Dalle 14 infatti inizieranno le votazioni per chiama nominale, mentre le dichiarazioni di voto e il voto finale sul Rosatellum ci saranno giovedì mattina. Ad intervenire questa mattina il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che voterà sia la fiducia perché la proposta di legge è condivisa da molti partiti, ma descrive un Premier schiacciato, un Premier Paolo Gentiloni schiacciato dal segretario PD Matteo Renzi. Il dilemma, spiega Napolitano, non è fiducia sì o fiducia no, anche perché non è mai stata affrontata un'obiezione di incostituzionalità. C'è però stato nell'esperienza italiana un ricorso in occasioni e modalità molto diverse tra loro. Napolitano contesta che l'indubbia esigenza di una decisione rapida da parte del Parlamento ne comprima però il ruolo e comprima anche quello dei deputati e senatori. È iniziata comunque la conta dei voti, 4 dissidenti nel PD che verranno comunque rimpiazzati dai verdiniani di Ala. Inoltre la maggioranza attorno a Rosatellum, PD, Forza Italia, Centristi e Lega prevede anche una lista di senatori in missioni, malati o assenti per far abbassare il quorum. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, andiamo all'opposizione dunque. Dopo le proteste in aula a Palazzo Madama, MDP e Movimento 5 Stelle restano sulle barricate contro il Rosatellum bis. Gli ex democratici ieri sono saliti al Colle per comunicare a Mattarella la loro uscita dalla maggioranza. Al capo dello Stato oggi si rivolge anche Luigi Di Maio. Non sia complice, non firmi la legge, incalza il candidato premier del Movimento 5 Stelle, i cui parlamentari nel primo pomeriggio saranno al Pantheon per un sit-in al quale dovrebbe partecipare anche Beppe Grillo, un appuntamento Parlamento per ribadire il loro no al Rosatellum e al ricorso alla fiducia, definito un atto eversivo e vergognoso. Dure le accuse rivolte al PD questa mattina in aula dal pentastellato Airola. Credo che sia scorretto appellarvi a voi del PD fascisti, perché siete molto molto peggio dei fascisti, perché è un insulto ai fascisti veri, perché loro arrivavano annunciandosi sulle loro camionette gridando allarmi siamo fascisti, mentre voi vi definite eredi dell'antifascismo, avete tradito il popolo depistandolo in modo vigliacco. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di politica, da segnalare la presa di posizione del vice segretario del Partito Democratico e ministro dell'Agricoltura, Maurizio Martina, a proposito della notizia che vi abbiamo dato anche ieri, ossia del probabile aumento dell'età pensionabile in conseguenza del fatto che l'Istat ha aumentato l'aspettativa di vita come previsto. Non tutti i lavori sono uguali, dice Martina, e non tutti i lavoratori hanno la stessa aspettativa di vita per le mansioni che fanno, e quindi Martina propone sostanzialmente di rinviare l'aumento dell'età pensionabile, e anche questo ovviamente entrerà nel dibattito. La Guardia di Finanza nella sede della RAI. La Guardia di Finanza torna a Viale Mazzini. Obiettivo: acquisire nuovi documenti su note spese e trasferte dell'attuale presidente Rai. L'indagine, già nota, riguarda il periodo in cui Monica Maggioni era alla guida di Rai News 24, e il punto su cui i militari si stanno concentrando sono i viaggi per la presentazione del suo libro Terrore Mediatico. La stessa documentazione, richiesta ora dalle Fiamme Gialle, è stata anche già consegnata all'autorità anticorruzione, che da tempo ha acceso un faro sulle uscite della televisione pubblica, che ora replica con una nota. L'accertamento è un atto dovuto dalla RAI, come sempre, si legge, massima collaborazione. Tutto partirebbe da una denuncia contro ignoti dopo sollecitazioni dell'ANAC e interpellanze parlamentari, tra cui quella della deputata grillina Mirella Liuzzi. L'accusa è che la presidente avrebbe effettuato il suo tour di presentazioni a spese dell'azienda pubblica, accuse già respinte dalla diretta interessata come dalla RAI, che aveva già spiegato come ogni uscita di direttori di reti o testata va considerata coerente con l'incarico, se serve ad affrontare, era stata la posizione di Viale Mazzini, temi coerenti con il mandato editoriale. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo adesso al calcio. Dopo aver parlato in apertura di tutte le polemiche sulla Lazio, veniamo a quello giocato, anche se ovviamente sui campi questa sera ci sarà una coda di tutta la polemica che c'è stata e che riguarda la Lazio, però insomma parliamo di quello giocato. Insomma, l'Inter si è goduta queste 24 ore da capolista, e Carlo Genta, vedremo che cosa succederà stasera, no? Una notte da leoni per sì. L'Inter in testa alla classifica, ovviamente è una proiezione virtuale, perché il Napoli gioca questa sera, però ieri bellissima partita, non facile in casa contro la Sampdoria, un grande Icardi, Sava Sandier, grande Perisic, ma ha giocato molto bene tutta l'Inter, forse la miglior partita stagionale anche dal punto di vista estetico, che in questo periodo va molto di moda. Comunque questo 3-2 che manda l'Inter appunto per una notte da sola in testa alla classifica. L'Inter è una cosa estremamente seria, come ho già ripetuto fino alla nausea in questi giorni, e ieri sera lo ha dimostrato, anche se ha rischiato, perché la Samp non ha mollato mai. Resta questo risultato che apre la decima giornata, turno infrasettimanale, non offre granché, almeno così dal punto di vista delle partite di cartello, almeno dal punto di vista teorico, questa giornata, che verrà aperta oggi pomeriggio alle 18.30 da Atalanta-Verona, partita a rischio, manco a dirlo, dal punto di vista dell'ordine pubblico, perché è sempre stato così, purtroppo. Sì. Poi Bologna-Lazio, Cagliari-Benevento e soprattutto Chievo-Milan, con il Milan sorvegliato speciale a Verona in attesa della Juventus che arriverà a San Siro nel weekend. Poi Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, altra partita difficile, Napoli nelle rassare non ha mai vinto a Genova con il Genoa. Juventus Pal, Roma Crotone, Sassuolo Udinese. Questo è il piano partita per la serata. Allora, ovviamente ne parleremo a partire dalle 14 in tutti i convocati. Io intanto ti ringrazio, Carlo. Grazie a Carlo Genta, che è là che lo ritroveremo, dopo il GR delle 14. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro Giro d'Italia con un paio di storie che sono abbastanza piccole, ma ci raccontano un pezzo di questo paese. La storia di un ricercatore che ha ricevuto anche l'ok dal TAR per essere preso nell'università, ma l'università non ne vuole. vuole sapere di assumerlo. La vicenda invece della scuola normale di Pisa, che decide di aprire una sede al sud anche per far sì che i ragazzi del sud non si debbano spostare ogni volta per venire a studiare al nord. E poi una storia da Livorno. Come sapete, la toponomastica divide sempre le amministrazioni, divide sempre i cittadini. Che nomi dare alle strade? Il Movimento 5 Stelle a Livorno, che è in maggioranza come sapete in Consiglio Comunale, ha deciso che no, una rotonda a Carlo Azeglio Ciampi proprio non si può assegnare. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i contatti sono sempre i soliti: 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video, la pagina Facebook di Radio 24. Come vi raccomando ogni giorno, andate là, potete attivare una sorta di notifica, una piccola notifica per quando Radio 24 è in diretta, così sarete avvisati. Nella prima parte della trasmissione siamo tornati sulla vicenda della Lazio e delle figurine con la foto di Anna Franca. Abbiamo parlato di Alitalia, del Monte dei Paschi che torna in borsa oggi, della legge elettorale, e ci siamo occupati anche di calcio. Adesso iniziamo il nostro Giro d'Italia e lo iniziamo tra Catania e Ragusa, per così dire. Non solo è una questione che ha a che fare con l'Università di Catania, ma che in realtà ci porta a parlare un po' di tutta Italia. Del resto siamo freschi, ed è fresco nella nostra memoria la maxi inchiesta che ha portato ad indagare una serie di professori, di docenti universitari, proprio per l'ipotesi di concorsi truccati o quantomeno aggiustati. Ebbene, c'è una persona che da anni combatte contro tutto questo, perché questa questione lo riguarda personalmente. Si tratta di Giambattista Scirè, che è in linea con noi. Buongiorno e benvenuto. Salve a lei, radioascoltatori. È un ricercatore di storia, all'attivo tra l'altro una serie di libri, e fece ricorso nel gennaio 2012 proprio perché riteneva che fosse di suo diritto un posto come ricercatore proprio all'Università di Catania. Sentenza definitiva del TAR nel 2014 lo riconosce vincitore, ma l'Ateneo dal 2014 ha sempre fatto finta di nulla. Ormai sono passati 3 anni e al suo posto c'è un'architetta, ho capito bene, Scirè? Sì, diciamo che al momento al mio posto non c'è l'architetta, perché all'epoca vinse il concorso, poi dopo la sentenza del TAR l'architetta fu sospesa, ma fu sospesa in ritardo. Ed era un concorso, chiariamo, non era un concorso per ricercatore per la facoltà di architettura. No, si tratta di un concorso per la cattedra di storia contemporanea bandito dall'Ateneo di Catania, afferente alla sede distaccata di lingue e letterature straniere. Questa, diciamo, è la dinamica, nel senso, sembra un profilo assolutamente non congruo di questa candidata che va a vincere questo posto. Lei fa ricorso e il TAR le dà ragione. La notizia di queste ore è che lei tra l'altro ha scritto al ministro dell'istruzione Fedeli per avere giustizia, perché l'Ateneo sta facendo orecchie da mercante. L'Ateneo fa orecchie da mercante da anni, nel senso che la sentenza non è stata eseguita, e questo non lo dico io o i miei avvocati, lo hanno stabilito i giudici del TAR, a cui nuovamente io ho dovuto ricorrere per questo ricorso per ottemperanza, cioè per farla eseguire. E quindi è molto recente questa sentenza in cui i giudici parlano apertamente di un'omissione da parte dell'Ateneo, e quindi nominano un commissario ad acta che dovrebbe insediarsi entro i 3 mesi, quindi una sorta di commissariamento dell'Ateneo. Io ho scritto alla ministra, è uscito questo articolo su Repubblica, e semplicemente chiedendo: ma siamo oggi in Italia in uno stato di diritto? Punto interrogativo. Per gli Atenei questo vale, quello che vale per tutti? Punto interrogativo. Pongo queste questioni molto semplici, diciamo che dovrebbero essere semplici, però evidentemente purtroppo col paradosso che un ente dello Stato, insomma, qualche appartenente allo Stato, come l'Università di Catania, che sostanzialmente non applica la legge. Devo dire che non è una novità pazzesca in Italia, però è un elemento da sottolineare sicuramente. Certo. Certo, no. Sì, no, sicuramente. Quindi io a questo punto, nel senso, sottolineo il fatto che molto spesso si dice che le cose non cambiano perché non si fanno i ricorsi, perché non si, comunque non, le persone fanno finta di nulla. No, e purtroppo la realtà di questa mia storia e disavventura dimostra anche il contrario, pur avendo, pur quindi denunciando magari alcune irregolarità, poi quello saranno poi i giudici a stabilire. Nella fattispecie c'è una commissione di concorso che è stata già rinviata a giudizio, ma quello ovviamente il processo andrà avanti, saranno i giudici a stabilire la cosa. Noi stiamo parlando invece della vicenda amministrativa che è già chiusa con sentenze definitive, e quindi insomma questo è molto, molto strano. Magari nei prossimi giorni vedremo se l'Università di Catania deciderà di rispondere a questo suo appello pubblico e magari potremo anche contattarli. Grazie intanto a Giambattista Scirè per essere stato con noi, e da una brutta storia di università a quella che ci sembra una bella storia di università. Siamo in linea con Vincenzo Barone, che è rettore della Scuola Normale Superiore di Pisa. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. La bella storia qual è? È il fatto che avete deciso di aprire una sede a Napoli, un distaccamento a Napoli, no? Nel tentativo di far sì che i ragazzi che spesso dal sud, per trovare una scuola d'eccellenza, un'università d'eccellenza, si devono spostare, invece trovino nel loro luogo d'origine o vicino al loro luogo d'origine un posto dove sviluppare il loro talento. Beh, intanto la Federico II di Napoli è di per sé un'università di livello molto elevato, perché la scuola normale lavora in sinergia con l'università della città a cui si appoggia. Noi qui lo facciamo con l'Università di Pisa, che ha una tradizione di lungo periodo, la Federico II ha una tradizione almeno dello stesso livello. Si tratta di aiutare questa operazione dell'Università di Napoli, mostrando anche che è possibile creare eccellenze, sviluppare il merito e quant'altro anche al sud. Sviluppare appunto il merito anche al sud. Ci sarà un investimento, immagino. Quante persone sarete in grado di accogliere giù? Allora, questa cosa la stiamo discutendo con il rettore della Federico II, Manfredi. Dipende dagli investimenti che si riusciranno a fare. Vorremmo partire con una cosa abbastanza limitata. Io tra l'altro pensavo di partire nel 2019, ma il rettore Manfredi ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo, vuole partire nel 2018, io non mi tirerò certo indietro. Partiremo con qualche corso sperimentale. A regime io vorrei che diventasse grande come noi la sede del sud. Tra l'altro, io non voglio una nostra sede distaccata in prospettiva, voglio una normale del tutto indipendente che al limite ci faccia anche concorrenza e che noi aiutiamo solo a creare sui nostri standard e poi avrà sua vita autonoma. La ringrazio, grazie Vincenzo Barone, rettore della Scuola Normale Superiore di Pisa, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro anche per quello che succederà a Napoli. E andiamo a Torino adesso, perché si è chiusa l'indagine che riguarda la società di trasporti torinese e ci sono 9 avvisi di garanzia. 9 avvisi di garanzia recapitati in queste ore ai vertici di GTT, la società di trasporto pubblico locale di Torino. Il reato ipotizzato dalla procura è quello di falso in bilancio. Fra le persone raggiunte dal provvedimento c'è il presidente AD della società, accanto a 2 componenti del CDA, 3 sindaci, 2 dirigenti e il rappresentante di una società di certificazione. Al centro dell'inchiesta è il fenomeno dei cosiddetti disallineamenti, partite finanziarie iscritte a bilancio della GTT per servizi di mobilità erogati, che però non trovano riscontro nei bilanci del comune e soprattutto dell'Agenzia della Mobilità. Tra crediti vantati e debiti in bilancio, la partita economica più consistente vale circa 70 milioni di euro ed è iscritta come credito di GTT verso l'Agenzia della Mobilità, ma non riconosciuta nelle scritture di quest'ultima. Sulla vicenda la procura vuole vederci chiaro, ma questo è solo uno dei piani. Il secondo riguarda l'operatività stessa della società, lavoro su un piano industriale che ne garantisca la sopravvivenza e che non potrà fare a meno dell'aiuto anche del Ministero dei Trasporti e della Regione Piemonte. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. da una città amministrata dal Movimento 5 Stelle, Torino, ad un'altra città amministrata dal Movimento 5 Stelle, e si tratta di Livorno. Parliamo di Carlo Azeglio Ciampi, uno dei cittadini, almeno recentemente, più illustri della città di Livorno. Lo ricordiamo per chi non lo conoscesse, anche se ci sembra strano che qualcuno non lo conosca: è governatore della Banca d'Italia, presidente della Repubblica, presidente del Consiglio, è stato ministro dell'Economia e delle Finanze, ministro del Tesoro, per essere precisi. È stato, insomma, un personaggio molto importante. Una vita piena, una vita di lotta contro il fascismo. E che cosa succede? Nei giorni scorsi a Livorno arriva la richiesta di intitolare a Carlo Azeglio Ciampi, scomparso non moltissimo tempo fa, una rotonda. Arriva direttamente dall'amministrazione comunale. Il Consiglio Comunale decide di dire di no. Daniele Esposito, che è presidente del Consiglio Comunale di Livorno, magari, che saluto, buongiorno, magari ci spiega perché. Buongiorno. Buongiorno a voi e tutti i radioascoltatori. Perché? Allora, il 13 di ottobre la Giunta Comunale ha deliberato l'installazione della rotonda del Danzal, l'ex presidente Cadazzello Ciampi. Il 19 di ottobre, durante il Consiglio Comunale, alcuni consiglieri hanno obiettato, chiedendone la cancellazione e che la discussione sia riportata in Consiglio Comunale, come previsto dal regolamento del Consiglio Comunale. E perché? Perché questi consiglieri non sono d'accordo sull'installazione al presidente Ciampi di una rotonda a Livorno. E perché non sono d'accordo? Non sono d'accordo per le motivazioni che hanno detto nel Consiglio Comunale, che sono non per la figura del Presidente della Repubblica, ma per la storia del governatore della Banca d'Italia e per alcune scelte che ha preso quando lo era. E cioè, mi scusi? Allora, loro hanno parlato delle privatizzazioni delle banche, della vendita delle aziende di Stato e dell'ingresso nell'euro con un cambio fisso sicuramente penalizzante per l'Italia. Queste sono le motivazioni addotte dal Consiglio. Ma lei personalmente è d'accordo con l'intitolazione di questa rotonda a Ciampi oppure no? Ma io, come Presidente del Consiglio, lo rappresento in toto, quindi rappresento tutte le figure. Ma avrà anche una sua comunale. Avrà anche una sua posizione, no? Io dico la mia posizione. Livorno sicuramente avrà un giorno una via o una piazza intitolata al Presidente Ciampi, perché presumo sarà anche giusto, ma questo non avverrà con un'amministrazione del Movimento 5 Stelle. Quindi non, finché la città sarà amministrata dal Movimento 5 Stelle, non ci sarà una via, una strada intitolata a Carlo Azeglio Ciampi. Sa perché la trovo una cosa curiosa? Perché quantunque uno possa pensare che presidente Carlo Azeglio Ciampi non è stata una figura con la quale condivide politicamente qualcosa oppure in disaccordo con qualcos'altro, è vero anche che ragazzi, la toponomastica italiana è piena, cioè ci sono persino strade intitolate a cantanti, su, parliamoci chiaro, insomma, no? Stiamo parlando di una persona non fosse altro per la sua storia, Esposito, cioè togliendo tutto quello che ha fatto nella storia della Repubblica, non fosse altro per quello che ha fatto durante il fascismo. No, ma guardi, io concordo con lei su questo, ovviamente, però si sta parlando di l'amministrazione di Livorno, c'è un Movimento 5 Stelle che ha sempre criticato il Ciampi, governatore della Banca d'Italia, per le scelte che ha fatto, e francamente, le dico francamente, io tutta questa polemica l'avrei evitata. Avrei evitato tutta questa cosa per il semplice motivo che come la pensa il Movimento 5 Stelle sulla figura di Ciampi è noto, è arcinoto. Io forse fossi stata alla Giunta avrei evitato proprio di portare a questa discussione. Quindi era la Giunta che doveva evitarlo, secondo lei. Nel frattempo il Comune di Firenze ha annunciato che lo farà il Comune di Firenze, intitolerà una strada a Carlo Azeglio Ciampi, ovviamente amministrazione di colore diverso e quindi una scelta diversa. Questa è diventata un'opportunità politica se uno le lascia le opportunità politiche qualcuno le coglie, Esposito, del resto, no? Ma, non mi sbaglio. Il sindaco Nardella è liberissimo di intitolare la strada a chi vuole, forse se lo voleva fare lo poteva aver fatto prima che avvenisse questa cosa a Livorno, però la politica è fatta anche di questo. È ovvio. Grazie Daniele Esposito, Presidente del Consiglio Comunale di Livorno. Ci fermiamo, c'è una pausa, come sempre c'è una pausa per i mercati, ci ritroviamo subito dopo. Stiamo cercando di raggiungere il sindaco di Accumoli e vedremo se riusciamo a farlo liberare un attimo dagli impegni che ha. Accumoli fortemente colpito, come sapete, dal terremoto. Ebbene, c'è stato un po' di vento e si sono scoperchiate le casette provvisorie. E quindi vogliamo capire un po' come sono state costruite e realizzate. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: la corona di fiori lasciata dalla Lazio alla sinagoga finisce nel Tevere e Lotito avrebbe detto famo sta sceneggiata. All'Italia arriva l'offerta per tutta la compagnia dal fondo americano Cerberus, Lufthansa fuori questione, l'acquisto così com'è. Monte dei Paschi torna in borsa con un crollo come previsto e si attesta intorno ai 5 euro, sopra il prezzo teorico. Legge elettorale alle battute finali, dalle 14 le chiamate per il voto di fiducia, protesta dei 5 Stelle e della sinistra. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, ci ricorda giustamente un ascoltatore che forse può essere una risposta per tutti, che questo paese, visto che abbiamo parlato di toponomastica, è pieno di piazze e strade intitolate al generale Cadorna, e visto che siamo in questi giorni, nei giorni del centenario di Caporetto, della battaglia di Caporetto, che fu una sconfitta pazzesca proprio per l'incapacità militare del generale Cadorna, e non, come dire, non solo per quello, che è una figura assai controversa, come sappiamo, e non si riesce a intitolare una piazza a Carlo Azeglio Ciampi. Per quanto riguarda invece chi ci dice e chi ci continua a dire che basta, vi attaccate anche ad una rotonda per attaccare il movimento giornalai di Radio 24, ribadisco come sempre che giornalai non è un'offesa, è un mestiere dignitosissimo. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, piantatela con questa sindrome da accerchiamento, ragazzi. Il Movimento 5 Stelle è al 25%, è un potere tanto quanto gli altri, così attacchiamo quando è necessario. In questo caso non abbiamo attaccato, abbiamo fatto un'intervista con un esponente del Movimento 5 Stelle, attacchiamo il PD, il Movimento 5 Stelle, la Lega, Forza Italia, tutti quelli che dobbiamo attaccare quando lo riteniamo opportuno e necessario. E comunque nella fattispecie non era un attacco. Invece parliamo con il sindaco di Accumoli, che dovremmo avere in linea. Petrucci, c'è? Buongiorno. Sì, buongiorno ai radioascoltatori. Eccoci qua, Stefano Petrucci, sindaco di Accumoli. Perché sono bastate due folate di vento, abbiamo capito, in qualche frazione i tetti delle casette provvisorie, quelle messe per il terremoto, sono volati via. Beh, non direi proprio così. Non diamo un segnale di allarme perché non è quello che è successo. In poche parole, ieri c'è stato, diciamo, un po' di maltempo con del vento forte e una lattoniera fermata in malo modo nella linea di colmo si è diverta, ma non è che sono volati i tetti, è la conversa di un colmo che si è diverta perché è fissata in maniera errata. Benissimo. Questo ci tranquillizza. Deve accadere, sì, però... Sì. No, ci tranquillizza, sì, no, perché siamo un po' fidati, per così dire, di altri colleghi nostri, ci permetta di dirlo, che facevano titoli sui... Se vuole, a testimonianza, le posso inviare una foto. No, no, ma mi fido perfettamente. Gli ascoltatori non possono vederla. Mi fido perfettamente. Ascolti Petrucci, come vanno le cose? Ah, le cose sono dure da affrontare, però piano piano ne verremo fuori. Adesso abbiamo già qualche risultato palpabile perché comunque abbiamo consegnato quasi tutte le abitazioni provvisorie ai nostri cittadini, nel numero di 187 su 200 che è il nostro fabbisogno. Per sabato prossimo 21 riapriremo i cimiteri per poter far visita ai nostri cari. Questo è un altro risultato importante perché abbiamo proceduto a mettere in sicurezza i cimiteri, quindi mettere anche i nostri cari in una situazione più dignitosa. Vediamo che siamo stati un anno alla ghiaccio con le mare di fuori quindi sono delle attività che già ci consentono di ritornare, non dico alla normalità, però... Eh sì, perché lo ricordiamo, vivere. Agli ascoltatori, siamo ad un passo, cioè giovedì della prossima settimana è il giorno della commemorazione dei defunti, quindi sarà importante anche per le persone che vivono ad Accumoli poter tornare nei cimiteri, no? Sì, sicuramente. Le attività commerciali che si sono delocalizzate lungo la via Salaria stanno riaprendo, quindi stiamo dando anche alle persone questo servizio di primaria di necessità, si sta mettendo in moto insieme alla regione un servizio anche di trasporto pubblico per collegare le 11 aree dei villaggi provvisori a questo centro commerciale e si stanno anche predisponendo quelle strutture aggregative per poter comunque far socializzare, per far incontrare un punto di incontro, specie nel lungo periodo invernale, tutti gli abitanti di queste strutture abitative. Quindi sono dei piccoli passi che comunque ci consentono di ridare un po' di sollievo a tutte queste popolazioni che hanno subito un grave disagio grandissimo sotto il punto di vista, ecco, sia di aver perso i propri cari, di aver perso quella che è la proprietà privata, sì, la loro privacy, comunque anche la socializzazione. Allora sindaco, io devo chiudere, la ringrazio, le auguro come sempre in bocca al lupo per il suo lavoro, che è particolarmente duro, in un lavoro che è già duro, quello degli amministratori locali, il lavoro di chi è in queste condizioni è particolarmente duro, quindi in bocca al lupo a Stefano Petrucci, sindaco di Accumoli. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.